Allora, 20 gennaio, seconda parte. Allora, questo testo, beh, è un testo, sì, ci mettiamo niente, lo leggiamo piano piano, e c'è qualcosa che è un po' più difficile, ma insomma, comunque è sorprendente da un certo punto di vista. Il frammento è N31, quindi Parigi capitale. N3,1. I frammenti sono stati tutti catalogati con... Parigi, capitale. Ciò che distingue le immagini dalle essenze della fenomenologia è il loro indice storico. Ciò che distingue le immagini dalle essenze della fenomenologia è il loro indice storico. Poi adesso vi spiegherò. Vi spiegherò cosa vuol dire questa frase, perché sennò è criptica. Comunque lui comincia a fare una distinzione tra immagini ed essenze e dice ciò che distingue queste immagini è il loro indice storico. Queste immagini devono essere assolutamente distinte dalle categorie della scienza dello spirito, il cosiddetto habitus, lo stile, eccetera. L'indice storico delle immagini, quindi il concetto è le immagini hanno una storia, e hanno qualcosa che lui chiama indice storico. L'indice storico delle immagini dice infatti non solo che esse appartengono a un'epoca determinata, ma soprattutto che esse giungono a leggibilità solo in un'epoca determinata. Allora, c'è un concetto nuovo che è quello di leggibilità, che è collegato con l'indice storico. L'indice storico delle immagini dice infatti non solo che esse appartengono a un'epoca determinata, ma soprattutto che esse giungono a leggibilità solo in un'epoca determinata. E precisamente questo giungere a leggibilità è un determinato punto critico del loro intimo movimento. Questo giungere a leggibilità è un determinato punto critico del loro intimo movimento. Quindi vuol dire che lui suppone che le immagini abbiano un movimento interno, anzi addirittura molto interno, intimo. E la leggibilità sarebbe un punto critico di questo loro movimento. E qui arriviamo. Ogni presente è determinato da quelle immagini che gli sono sincrone. Ogni ora qui è inteso come l'avverbio, che in tedesco si dice jetzt. Ogni jetzt è l'ora, lo jetzt, di una determinata conoscibilità. E in quest'ora la verità è carica di tempo sino a frantumarsi. E in quest'ora la verità è carica di tempo sino a frantumarsi. Questa è una cosa bizzarra. Però se c'è la storia ci sarà anche il tempo, questo è ovvio. Però uno non pensa che l'immagine abbia dentro di sé il tempo, anzi dice, sembrerebbe, no, dice lui. Quindi ogni presente è determinato da quelle immagini che gli sono sincrone, ogni ora, yes, è l'ora di una determinata conoscibilità. In quest'ora la verità è carica di tempo sino a frantumarsi. Parentesi. E questo frantumarsi e nient'altro è la morte dell'intenzio, cioè dell'intenzione, che coincide con la nascita dell'autentico tempo storico, il tempo della verità. Non è che il passato getti la sua luce sul presente, o il presente la sua luce sul passato, ma immagine è ciò in cui quello che è stato si unisce fulmineamente con l'ora, yetz, in una costellazione. Il passato si unisce con l'adesso, potremmo forse anche dire anche il presente, e questo per Benjamin forma una costellazione. In altre parole, immagine è la dialettica dell'immobilità, è la dialettica nell'immobilità. Poiché mentre la relazione del presente con il passato è puramente temporale, ecco perché lui non vuole usare il termine presente, ma usa ora, yet, adesso. Poiché mentre la relazione del presente col passato è puramente temporale, quella tra ciò che è stato e l'ora, l'adesso, è dialettica, non di natura temporale, ma immaginale. Solo le immagini dialettiche sono immagini autenticamente storiche, cioè non arcaiche. L'immagine letta, vale a dire l'immagine nell'ora della leggibilità, porta in sommo grado l'impronta di questo momento critico e pericoloso, che sta alla base di ogni lettura. Allora, mi rendo conto che il testo è breve, ma è difficilino, perché non è agevolissimo, non è molto agevole. Allora, primo movimento. Le immagini hanno, se non una storia, un indice storico. Questo indice storico dice che queste immagini appartengono a una certa epoca, a un certo momento, a una certa epoca. Vuol dire che epoche diverse producono immagini diverse. Le immagini sono storiche, hanno un indice storico perché sono state prodotte in una certa epoca. Però lui dice questo non basta. Non solo le immagini appartengono a un'epoca, ma vengono lette in modi diversi a seconda di una certa epoca, e ogni immagine ha un suo momento in cui diventa leggibile, più leggibile evidentemente che in altri momenti. Allora, il fatto che lui usi il termine leggere, usa lesen in tedesco, credo sia lesenbarkeit, leggibilità, indica che non vuol dire che le immagini non si possono guardare, le immagini si possono guardare in tutti i momenti, ma non si possono leggere, quindi non si possono capire, non si può capire quello che vogliono dire, non si può guardare. Questo avviene solo in un momento determinato, certe immagini, poi vedremo che lui non dice che tutte le immagini sono fatte così, però dice... Perché dice che devono essere distinte dalle essenze della fenomenologia? Perché Husserl, e poi anche Heidegger in parte, che era un discepolo di Husserl, che è il fondatore della scuola filosofica detta della fenomenologia, aveva fatto tutta una teorizzazione sulle immagini, ma le aveva collegate con un po' con una specie, un po' con le idee platoniche, insomma, cioè con le essenze, con delle cose che stanno lì, fisse, ferme, immutabili, uguali per tutte, eccetera, eccetera. E quindi non storiche, no? Le immagini della fenomenologia, della scuola della fenomenologia di Husserl, secondo Benjamin, hanno questo, diciamo, difetto. Non esibiscono, non producono, non mettono fuori il loro carattere storico. Dice no, non è vero, dice insomma, Benjamin, le immagini, almeno quelle che ci interessano a noi, hanno un indice storico, quindi non possono essere delle essenze. L'indice storico ci dice che esse non solo sono state prodotte in un'epoca, ma diventano leggibili in un'epoca, che suppone lui può anche non essere la stessa in cui sono state, come dire, prodotte. E questo giungere a leggibilità è un punto critico del loro intimo movimento, vuol dire che un'immagine, quindi allora la prima cosa è, se le immagini hanno un indice storico, vuol dire che noi sbagliamo a considerarle, come dire, immobili. Le immagini hanno un movimento loro intimo, e questo movimento si esplica in cosa? Nel fatto che a un certo punto le vediamo in un modo diverso. Facciamo un esempio, potrebbe essere, forse non è una cosa, potrebbe essere che Las Meninas di Foucault, di Velázquez, come dire, aspettasse che Foucault la leggesse in quel modo. Si potrebbe pensare, che ne so, dice, guarda, ha aspettato 3 secoli di Velázquez, non che nessun altro ne abbia mai parlato, ma se noi pensassimo che la lettura che ne dà Foucault è quella che rivela più di altre l'intimo movimento, come dice Benjamin, possiamo dire così. Comunque poi c'è un altro esempio che vi farò vedere, perché lui poi c'è una, almeno una di queste immagini c'è in un altro testo, sempre di Benjamin. Allora, indice storico, leggibilità, movimento interno dell'immagine. Quarto il concetto, sincronicità tra il presente e certe immagini. Addirittura, dice lui, ogni presente è determinato da quelle immagini che gli sono sincrone. E ogni ora, ogni istante, ogni adesso, ogni yes, è l'adesso di una conoscibilità determinata. In quest'ora, cioè quando si arriva a un momento di questo genere, in cui una immagine diventa leggibile, solo in quell'istante la verità è carica di tempo sino a frantumarsi. E tra parentesi dice, questo non è leggibile nei termini dell'intenzionalità, non ce ne frega nulla di cosa avesse voluto fare, di quale fosse l'intenzione dell'autore, se c'è, di quell'immagine. E infatti vedremo che nell'esempio che vi farò adesso c'è esattamente questo. In una particolare immagine Benjamin vede delle cose che non ci sono nell'immagine e le dice, ne parla in un altro pezzo che non è questo. Attenzione, ci mette in guardia Benjamin dal padre di dire, vabbè, dice, questo l'ha già detto in tanti, no? Dice, vabbè, cioè è il passato, dice, il presente è presente solo perché ha avuto un passato e quindi la luce del passato si riverbera sul presente, o il presente si riverbera sul passato, e dice no, non è questa cosa banale. Lui non vuol dire che c'è un progresso, che c'è una cosa per cui a poco si costruisce, no, ci sono dei momenti di crisi, il termine crisi l'ha già usato prima, e precisamente questo giungere a leggibilità è un determinato punto critico del loro intimo movimento, punto critico, quindi vuol dire che c'è una crisi. Che cosa succede quando l'immagine diventa leggibile? Che cosa accade? Che ciò che è stato si unisce fulmineamente, in un momento. Quindi vedete che lui prende molte di quelle che io prima vi raccontavo e vi dicevo sono le caratteristiche del modo in cui si percepiscono le immagini, no? Solo che io ve l'ho data come con delle connotazioni puramente, non diciamo negative, ma opposte a quelle del linguaggio, della parola. Il tentativo che fa Benjamin, meraviglioso in questa mezza pagina, è quello di negare questa contrapposizione tra immagine e parola. Lui dice no, guarda che in realtà proprio quando c'è questo adesso in cui la verità è carica di tempo sino a frantumarsi, è un istante, è un momento, ma si concentra in quell'istante e in quel momento una verità, quindi una leggibilità di una situazione, di un concetto, di qualche cosa, c'è una verità, io arrivo a una verità che non vuol dire verità oggettiva, uguale per tutti, può anche essere una verità molto particolare, molto intima, però è una verità che in quel momento determina il rapporto tra chi guarda quell'immagine e l'immagine stessa. E allora, quindi, quello che è stato si unisce fulminamente con l'ora, è come fosse una costellazione, dice. È strana questa idea della costellazione, perché? Chissà perché dice costellazione. Che cos'è una costellazione? È una cosa banale, è un insieme di stelle, no? Costellazione, cum, stella, una costellazione. Ma nella costellazione io tradizionalmente in quell'insieme di stelle leggo una figura. Dico, questo è Orione, questo è il cacciatore, questo è l'orsa maggiore, questo è l'orsa minore, quello è il carro, quello è il cane, quello è... Adesso non siamo più abituati, insomma, se uno guarda le costellazioni dello zodiaco di queste, sono delle cose di immagini. È come si può dire, in una costellazione, quindi si unisce quello che è stato, le stelle sono lì da un casino di tempo immemorabile. A un certo punto arriva uno, le guarda e dice, quello è Orione, quello è il cane, quella è l'orsa, quello è il carro dell'orsa, quella è l'orsa, quella è l'orsa minore, quella è la... È come se in un certo momento quell'immagine delle stelle fosse arrivata alla sua leggibilità. Quello che è stato si è unito fulmineamente con l'ora e si è creata una costellazione. In altre parole, immagine è la dialettica nell'immobilità. C'è qualcosa di fermo, di immagine, di qualcosa che non si muove, ma quel qualcosa che non si muove, quella immagine fissa, mi fa leggere, mi fa vedere, si fa leggere come il risultato di un movimento, come una unione tra il passato e il presente. Non c'è nulla dello storicismo di Hegel, cioè per cui la storia si sviluppa, va avanti, la storia va avanti a balzi, detta così, va avanti a balzi, finché non è arrivata l'ora della leggibilità di una immagine, o finché non è arrivata l'ora di una rivoluzione o di una rivolta, non ce ne frega un cazzo di come, è come se la storia non ci fosse stata, è irrilevante, è in quel momento che si fa la storia, è in quel momento che si, quindi è una, come dire, una teoria implicita della discontinuità, diciamo, totale, della quindi è, sembrerebbe che lui dica che la storia è un sistema discreto. Perché mentre la relazione del presente con il passato è puramente temporale, quella tra ciò che è stato e lo yes e l'adesso è dialettica, non di natura temporale ma immaginale. Quindi ci sono alcune immagini, secondo Benjamin, che sono le immagini che lui chiama dialettiche, che non funzionano come... che non dicono mai la stessa cosa, ma possono dire cose diverse se le guardi in un momento diverso, perché sono arrivati nel momento della loro leggibilità, e solo quelle, dice lui, sono autenticamente storiche, cioè non arcaiche. Chissà cosa saranno le immagini arcaiche per Benjamin. Sono le immagini che non sono arrivate alla loro leggibilità. Ci dicono sempre solo quella cosa, rimangono lì, sono vecchie, sono arcaiche, ci dicono, in tempo le cose erano così. L'immagine che interessa a Benjamin è un'immagine dialettica. Attenzione, il termine è diversissimo da quello che usa Flusser, che dice quiete, sembrerebbe. Però anche nella quiete di Flusser sì. Indovina un'intenzione sovversiva. Sovvertire le intenzioni del programmatore occulto, sociale, quello che sia, non personale, che ha programmato le immagini tecniche. Quindi forse una qualche somiglianza ci potrebbe essere tra queste immagini dialettiche e quelle quiete. Solo le immagini dialettiche sono immagini autenticamente storiche, cioè non arcaiche. L'immagine letta, vale a dire l'immagine nell'ora della leggibilità, porta in sommo grado l'impronta di questo momento critico, la seconda volta che c'è il termine crisi, e pericoloso, che sta alla base di ogni lettura. Qui dobbiamo andare un po' sulla congettura, però l'utilizzo del termine, del verbo leggere, leggibilità, lettura, eccetera, indica che qua Benjamin cerca di trattare le immagini, se non tutte le immagini, quelle che maturano una leggibilità significativa in un certo momento, quelle che riescono a fare questo movimento che dice lui, a concentrare dentro di sé una tale quantità di verità, una tale quantità di tempo che la verità si frantuma e quindi non è più visibile, non è più leggibile, non è più. E quindi sono immagini che in qualche modo, lui le chiama dialettiche, possiamo pure tenere il termine suo, anche se oggi probabilmente dialettico fosse un termine un po' equivoco, perché ci ricorda la dialettica di Hegel o quella di Socrate o quella non so, insomma. È una dialettica che non indica, lui lo dice varie volte, non è che il presente getta la luce sul passato, non è che si crea una cosa veramente nuova, nasce una costellazione, nasce una figura che ha un significato, che vuol dire una cosa diversa, che ha una leggibilità. Ora vuoi capire che in tutta questa cosa c'è un tentativo spasmodico di mettere insieme l'immagine con la parola, perché se no non direbbe leggibile, non è solo una metafora, no? Dice la leggibilità della parola. Ora, vi voglio raccontare, questo ve lo posso dire, questo è più complicato, me lo sono dovuto stampare perché non posso raccontarvelo a memoria, l'altro ve lo posso raccontare a memoria perché non è così, ma poi comunque i termini tecnici sono